lontano, lontano nel mondo, qualche cosa negli occhi di un altro si farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che s'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. Oh.